Storie italiane. Il principe rubino. Una volta, nella lontana Persia, un mendicante stava camminando sulla riva di un fiume. Il fiume si era improvvisamente ristretto, lasciandosi dietro un sacco di fango. Lui cercava i pesci rimasti nel fango del fiume, che si era ristretto. Se sono abbastanza fortunato, forse troverò almeno due pesci oggi. O forse anche tre. Ma qualcosa di più prezioso era in attesa di essere trovato. Wow! È così grande e luminoso. Mi chiedo quante cene posso comprare con questa pietra. Il mendicante si precipitò dal suo amico che lavorava per lo scià nella cucina reale. Dove hai trovato questo? Sulla riva. Ascolta, amico, mi hai aiutato molto. Capisco che non puoi darmi più cene gratis. Quante ceni credi che questa pietra possa pagarmi? Pietra? Questo è un rubino, stupido. Questo potrebbe cambiarti la vita. Porta questa allo scià immediatamente e ascolta. Potrei chiedere due grossi vasi d'oro in cambio di questo rubino. Due grandi vasi? Sì, niente di meno. Capisci? Il mendicante ascoltò il consiglio del suo amico e se ne andò per incontrare lo scià. Lo scià rimase stupefatto. Mai in vita sua aveva visto un rubino così grande. Ti darò tre vasi d'oro in cambio di questo rubino. Va bene? Tre vasi d'oro? Signore, questo è il miglior giorno della mia vita. Il mendicante prese i tre vasi d'oro e se ne andò. Questo è prezioso. Lo regalerò a mia figlia il giorno del suo 18° compleanno. Sono sicuro che le porterà una grande fortuna. Mise la pietra in un grande baule e la chiuse con un enorme lucchetto. Il giorno del 18° compleanno di sua figlia, lo scià andò a prendere il rubino. Non appena aprì il baule... Chi sei? Signore, io... Guardie! Ladro! Ha rubato il mio prezioso rubino! Ridammelo in questo momento! Signore, ma che ladro ruberebbe un rubino per poi chiudersi nel baule da solo? Ma il tuo rubino è sparito e questa è la verità. Non posso riportare indietro il tuo rubino. Sono qui al posto di esso. Sono il principe rubino. E ti chiedo di non chiedermi come è successo. Principe rubino? Sei un ladro! Pensi che sia così facile? Perdo il mio prezioso rubino? Trovo un uomo nel mio baule e non mi è permesso nemmeno di chiedere spiegazioni? È vero. Capisco il tuo problema, signore. Ma in ogni caso, non posso dirti da dove vengo. Ah? Se è così, allora mi lasci senza altra scelta. Dato che ti ho trovato in un baule nel mio palazzo, farai come ti dico. Ora sei il mio servo. Sì, signore. Lo scià voleva far giustiziare il principe rubino, ma non poteva. Gli occhi fermi del principe e la sua voce calma rendevano difficile per lo scià dare un tale comando, ma era ancora furioso per aver perso il suo prezioso rubino. Lo scià diede al principe diversi lavori da fare, come il giardinaggio e le pulizie del palazzo. Il principe però non se ne lamentava, anzi approfittava di ogni compito per andare vicino alla principessa. Si era irrimediabilmente innamorato di lei. Quel ladro, come osa rubare a me? Cosa faccio di lui? Aspetta, ho un'idea. Il giorno dopo chiamò il principe. Ascolta, vive un drago nelle acque persiane. sta affondando tutte le nostre navi da mesi. Il nostro commercio ne è gravemente danneggiato. Prendi la mia spada e sconfiggi quel drago. Questo è un ordine. È pazzesco. Come dite voi, Vostra Altezza. Ma mi servirebbe un flauto. Suonerò per attirare il drago fuori dall'acqua nella foresta. Va bene, ma questo non ti aiuterà. È pericoloso sulla terra quanto lo è nell'acqua. Ma questo è l'unico modo per eseguire i suoi ordini, signore. Non posso entrare in acqua. Lo scià accettò. Non può entrare in acqua? Che tipo di principe è? Ho mandato così tanti grandi guerrieri a combattere questo drago. Nessuno è tornato. Incontrerà il loro stesso destino. Il principe prese la sua barca e raggiunse la foresta. Andò in un grande spazio vuoto, proprio al centro, e si preparò a chiamare il drago fuori dall'acqua. La terra tremava mentre il drago si avvicinava. L'aria si fece più calda. Il principe capì che il drago era vicino. Il drago scese con tutta la forza, ma il principe non si mosse. E con un solo movimento della mano... Ti risparmierò la vita, ma promettimi che non affronterai altre navi e non disturberai nessuno, mai più. Il principe Rubino tornò al palazzo. Tutti rimasero scioccati nel vederlo. Altezza, ho fatto quello che mi avete chiesto. Il drago non tornerà mai più. Sei un principe coraggioso! Sono molto impressionato, figliolo. Ah, ti credo ora. Non so chi sei o da dove vieni. Ma rispetterò il tuo desiderio di non chiederlo mai più. Dimmi, cosa desideri? Il tuo desiderio sarà esaudito. Signore, mi sono innamorato di sua figlia. Con il suo permesso, vorrei chiederle di sposarmi. Mi hai già conquistato con il tuo coraggio. Se lei vuole sposarti, chi sono io per dire qualcosa? La figlia dello scià fu ugualmente colpita dal principe. Accettò immediatamente di sposarlo. La principessa era una donna gentile. Lei amava teneramente suo marito. Trascorsero le loro giornate felicemente, prendendosi cura del loro regno. Ma una domanda continuava ad infastidire la principessa. Amore mio, non so niente di te. Chi sei veramente? Per favore, dimmi da dove vieni. Per favore, non chiedermelo. Non potrò mai dirtelo. Se dovessi farlo, mi perderesti per sempre. Questo rese la principessa molto triste. Amava il suo principe e voleva sapere tutto di lui. Una volta sedettero vicino all'oceano. Lei provò a chiederglielo di nuovo. Ancora una volta il principe divenne triste e le chiese di non costringerlo. Ma perché? Perché non posso saperlo? Per favore, dimmelo, ti prego. Sai che ti amo teneramente. Non posso vederti soffrire così. Se vuoi saperlo, allora ti dirò chi sono. Sono... Aiuto! Guardie! Ridammi mio marito! Le guardie reali cercarono nell'intero oceano, ma il principe non venne mai trovato. La principessa diede la colpa a se stessa. Tutti cercarono di spiegarle che non poteva essere colpa sua, ma lei non volle ascoltare. No, sono state le mie sciocche domande ad averlo portato via. La principessa non poté sopportare il dolore e si ammalò gravemente. Molti medici cercarono di curarla, ma niente funzionò. Lo scià era preoccupato per sua figlia. Poi un giorno una cameriera entrò nella sua camera da letto con una strana notizia. Vostra Altezza, ho numi! C'erano così tante luci nell'oceano la scorsa notte! I geni hanno ballato! È stato bellissimo! Oh, che sciocchezze! Non ci sono geni! Vai via. Ma io l'ho visto. Indossava il rubino più luminoso sulla sua testa e... Hai detto rubino? So che non credi nei geni, ma... Non mi importa dei geni. Portami in quel posto. Quella notte la principessa e la sua cameriera si nascosero dietro cespugli nella foresta vicino all'oceano. Aspettarono lì fino a quando non divenne buio. Poi, improvvisamente, videro alcune luci volare nell'oceano. Le luci si trasformarono improvvisamente in meravigliosi geni e piccoli giovani uomini. Poco dopo, il re dell'oceano si levò con i suoi uomini. Indossava una tunica dorata e teneva in mano uno scettro. Presto, lo spettacolo cominciò. I geni ballavano e gli uomini mostravano i loro trucchi al re. Ma alla principessa non importava nulla di tutto ciò. Il suo sguardo era fisso sull'uomo in piedi accanto al re. Non avrebbe mai potuto dimenticare quegli occhi del colore dell'oceano. L'amore della sua vita era lì come una statua. Mio principe! Allora la principessa fece qualcosa di molto coraggioso. Si coprì la faccia con un velo e uscì dal suo nascondiglio. Ballò tra i geni. Si muoveva così bene che tutti rimasero immobili. Incredibile! Una danza così divina! Chiedici quello che vuoi e ti verrà dato! Vostra Maestà, io sono la figlia dello Shah, moglie del mio principe Rubino, che sta accanto al tuo trono. Per favore, ridammi mio marito. Non ti chiedo nient'altro. Il re fu infastidito da questa richiesta e tornò in acqua e prese il principe con sé. No! Aspettate! Oh. Principessa, guarda laggiù! La principessa corse a riva. Era il suo principe. Prima che lei potesse capire cosa fosse successo, l'oceano parlò. Puoi riaverlo, ma non dimenticare come lo hai perso. Sii più saggia. Amore mio! L'intero regno gioì del ritorno del principe Rubino. La principessa divenne più saggia da quel giorno in poi. Non chiese mai più niente a suo marito del suo mondo sotto l'oceano. Era felice di averlo. La principessa adorava il suo principe Rubino e vissero felici e contenti.